giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Fino ad ora le piante non hanno ricevuto da scienziati, filosofi e giuristi l'attenzione che meritano. C'è bisogno di sviluppare un migliore approccio teoretico nei loro confronti, perché questi meravigliosi esseri viventi non abitano solo il nostro terrazzo, ettari di campi coltivati o i nostri parchi e giardini. Popolano la mitologia, l'immaginazione e la cultura. Abitano la terra e l'aria, il nostro passato, il presente e necessariamente il nostro futuro. Oppure non ce ne sarà uno. Alessandra Viola. Bentornati in giardino per quest'ultima domenica di giugno, nonché ultima puntata della stagione prima della pausa estiva. I grandi giardini italiani hanno tutti riaperto e ci aspettano per un'estate di bellezza. Tra poco li visiteremo prediligendo quelli vista mare. Prima, sulle nostre amiche piante, riflettiamo in compagnia dell'autrice del libro Flower Power, di cui in apertura abbiamo sentito uno stralcio. Sto parlando di Alessandra Viola, giornalista e scrittrice scientifica, che quando parla di piante lascia il segno. Pensiamo ad esempio al libro che sul mondo vegetale ha aperto gli occhi di molti di noi, Verde Brillante, scritto da Stefano Mancuso insieme appunto ad Alessandra Viola, che saluto, ben trovata al Giardino Segreto. Grazie dell'invito. Senz'altro sì, e poi quel libro non ha aperto gli occhi soltanto agli altri, ma anche a me. Io avevo un pollice nerissimo e scrivendo quel libro, oltre a iniziare a conoscere meglio il mondo delle piante, ho anche cambiato proprio il mio rapporto con loro. Adesso ho un bellissimo terrazzino tutto verde, che è sicuramente frutto di Verde Brillante. Libro che non ho mai smesso di consigliare in questi primi due anni del Giardino Segreto. Però adesso, accanto a Verde Brillante, sul comodino, possiamo posizionare Flower Power, edito da Einaudi, libro in cui tu, Alessandra Viola, attenzione, parli di diritti, i diritti delle piante. Sì. Diciamo, il libro in realtà parte proprio da quello precedente che giustamente ricordavi, perché Verde Brillante sostiene la tesi dell'intelligenza delle piante e oltre a dire cose molto note, cioè che le piante sono dotate di sensibilità, che hanno tutti i sensi che hanno gli uomini e anche altri, che sono dotate di abilità sociali, che riconoscono i parenti, che sono in grado di comunicare, che hanno memoria, che imparano, ecco, Verde Brillante sostiene appunto la tesi dell'intelligenza e dice che le piante sono anche intelligenti. Allora, partendo da quelle riflessioni lì, io mi sono avvicinata al tema dei diritti chiedendomi, ma insomma, se le piante sono degli esseri viventi così straordinari e in più, oltretutto, la nostra vita, come quella di tutti gli animali sul pianeta, dipende da loro, com'è possibile che tutti abbiano dei diritti? Gli uomini, le donne, i bambini, gli anziani, i malati, i carcerati, non so, gli animali, e proprio le piante no? E a partire da questa riflessione è nato Flower Power. Lo sai che la tua appare come una proposta provocatoria? Intendo dire, in un momento in cui il pianeta è in allerta per la salute umana, per un evento inaspettato che ci ha sorpresi e intrappolati, in un momento in cui in tutte le piazze del mondo ancora ci si batte contro il razzismo, dopo il caso Floyd negli Stati Uniti, e quindi per i diritti dei neri, qualcuno si chiederà. E noi siamo qui a parlare dei diritti delle piante, di questi esserini immobili e silenziosi, ma perché? Proprio per lo stesso motivo per il quale dobbiamo occuparci del Covid e dobbiamo occuparci dei diritti dei neri e di tutte le altre minoranze, per lo stesso motivo dobbiamo occuparci dei diritti delle piante. Mi spiego meglio, tanto per iniziare partiamo dal virus. Allora, esiste un legame per esempio tra diffusione delle pandemie e deforestazione. E non lo dico io, lo dicono tante ricerche scientifiche, lo dice in ultimo un report del WWF che è stato pubblicato abbastanza di recente, che sostiene appunto che quando noi andiamo a deforestare, in particolare le zone più antiche di foreste, diciamo, primarie del pianeta, ci avviciniamo molto pericolosamente a dei virus che possono a quel punto compiere il salto di specie, come è stato il caso del Covid, e avvicinarsi a loro volta all'uomo, uscire dall'equilibrio nel quale si trovano. Se noi rispettassimo i diritti delle piante smettendo di deforestare, che poi è un bruttissimo modo per dire che uccidiamo milioni, centinaia di migliaia di esseri viventi, perché questo sono le piante, sono esseri viventi, se smettessimo di commettere questa strage orrenda che è appunto distruggere le foreste, saremmo molto più sicuri anche noi, perché le piante ci proteggono dai virus. Adesso addirittura ci sono delle ricerche che cercano di dimostrare o di capire se esiste una correlazione tra la protezione dal virus e la vicinanza alle piante. E questo è per quanto riguarda il virus. E poi c'è la questione delle minoranze. Allora, il fatto che noi lottiamo ancora oggi per i diritti dei neri ci deve semplicemente fare ricordare che i diritti non sono una cosa acquisita una volta per tutte, e che se sul piano ideologico ci può sembrare normale che un uomo bianco, nero, mulatto o quello che sia abbia sempre gli stessi diritti, dobbiamo pensare che questi diritti in realtà sono una conquista molto recente, che fino a un secolo e mezzo fa esisteva la schiavitù, e quindi i diritti dei neri non esistevano e i neri erano considerati proprietà dei loro padroni bianchi, proprio come oggi noi consideriamo le piante. Per noi le piante oggi giuridicamente sono oggetti di proprietà di qualcuno, e questa situazione è semplicemente insostenibile nell'ottica di quello che abbiamo detto prima, cioè che le piante sono dotate di capacità di scelta, di intelligenza, eccetera. Non si può pensare che questi esseri viventi siano di qualcuno e che questo qualcuno possa disporne a suo piacere. Dunque, i diritti vanno assicurati alle piante perché sono esseri viventi esattamente come noi, anzi apparsi sulla terra molto prima di noi e dei quali dipendiamo, ma non volendo considerare questo, il motivo potrebbe essere semplicemente egoistico, cioè se non preserviamo, se non proteggiamo le piante, ne va anche della nostra vita, del nostro benessere, della nostra salute. Straordinario come l'uomo riesca con la sua incredibile arroganza, perché così bisogna chiamarla, a sentirsi il dominatore del pianeta, quando in realtà è soltanto una specie molto aggressiva, che quindi si è straordinariamente diffusa sul pianeta a spesa delle altre, ma senz'altro non domina il pianeta, tanto è vero che riusciamo per lo più a distruggere le altre specie e interi ecosistemi, ma non riusciamo per esempio a ricrearli. Non soltanto non dominiamo il pianeta, ma torniamo a sottolineare che siamo completamente dipendenti dalle piante. Nel senso, sparissero loro, spariremmo anche noi, cosa che invece non succederebbe all'inverso. Esatto, è assolutamente vero. Noi ci estingueremmo in pochissime settimane senza le piante, e le piante invece viverebbero benissimo senza di noi, erano già sul pianeta prima che la specie umana comparisse, quindi... Ed è, al di là della loro utilità, straordinario considerare quanto le piante riescano a regalare semplicemente esistendo accanto a noi, vale a dire semplicemente cominciando una coltivazione in un vaso, avvicinandole, conoscendole, il rapporto si trasforma e le consideri semplicemente come essere viventi e non certo come semplici risorse. Sì, ed è il motivo per il quale stiamo cercando di capire, per esempio, come fare a portarcele dietro nei viaggi spaziali, perché non riusciamo a stare a lungo senza piante. Alcune ricerche scientifiche dimostrano che stare vicino alle piante ci aiuta a concentrarci meglio, ci rasserena, nelle strade dove ci sono alberi ci sono meno incidenti stradali, e quindi c'è una correlazione strettissima tra il nostro benessere psicologico e la presenza delle piante accanto a noi, ed è abbastanza naturale anche se vogliamo, perché appunto sappiamo sin da quando siamo apparsi sul pianeta che avere accanto delle piante è fondamentale per la nostra sopravvivenza, e lo sappiamo ad un livello non più razionale ma ancora istintivo. Per la nostra sopravvivenza, per il nostro benessere, per la nostra tranquillità, ce ne siamo accorti in questo periodo di lockdown in cui molti si sono avvicinati alle piante e hanno trovato in loro una compagnia, sembra strano, no? Una compagnia, una consolazione, perché questi esseri viventi trasmettono positività. In questo senso, se tutti cominciassero ad avvicinare le piante, anche in città, anche nei centri urbani, anche nelle case piccole, perché esistono le piante d'appartamento, già secondo me scatterebbe un rapporto che poi aiuterebbe a comprendere questo mondo e quindi a preservarlo e quindi anche ad assicurargli dei diritti. Potrebbe essere una strada quella, cioè cominciare a conoscerle per poi fidarsi. Sono completamente d'accordo. Il primo ostacolo da superare è quello che noi non conosciamo abbastanza le piante. Abbiamo studiato molto di più gli animali e malgrado ci dicano anche a scuola quanto sono straordinarie, che fanno la fotosintesi, che sono vive, in realtà le conosciamo così poco che molti di noi non sono in grado, per esempio, di riconoscere, non so, un tiglio da un faggio, ma tutti sanno riconoscere un cane da un gatto, un cavallo da una zebra. Ed è facilissimo rendersi conto che veramente sappiamo pochissimo, non so, di come si riproduce una pianta, di come cresce. Se non le conosciamo e non capiamo quanto straordinarie sono, certo sembrerà ovviamente sempre strano pensare di potergli riconoscere dei diritti. In che modo si potrà procedere in questo senso concretamente, secondo te? Ma la mia speranza è che si avvii un grande dibattito, insomma, tra la popolazione, tra i politici, insomma, che si inizi a discutere di questa cosa. In questo senso ti ringrazio per questo spazio che stai concedendo al tema che state concedendo ai diritti delle piante, perché è importante che cominciamo a farci tutti un'opinione. Quali sono questi diritti delle piante? È importante, non è importante? Intanto la cosa fondamentale è cominciare a parlarne e poi capire insieme quali potrebbero essere questi diritti delle piante ed arrivare ad una dichiarazione, un po' come si è fatto per l'uomo, per il bambino, per gli animali, una dichiarazione dei diritti delle piante che sia uno strumento ideale, diciamo, di riferimento, come sono appunto queste grandi dichiarazioni, alle quali poi rifarsi al momento di legiferare su determinati temi. Perché l'ambientalismo, quello paternalistico che abbiamo avuto fino adesso, in cui dovevamo difendere le piante perché erano nostre, perché ci servivano, ha fallito in tutti i modi in cui era possibile fallire, quindi bisogna senz'altro cambiare approccio, e l'approccio dei diritti ha già funzionato tante volte per difendere i soggetti più deboli. Conferirgli dei diritti ha aiutato questi soggetti più deboli a difendersi e a diventare parte integrante della società e ad essere accettati, sia pure insomma con il tempo che ha richiesto, come dicevi giustamente, i diritti dei neri o quelli degli omosessuali o quelli di tanti altri gruppi di persone ancora attendono di essere pienamente riconosciuti. Bisogna iniziare. Tu sai che parlando di piante possiamo davvero usare il termine rivoluzione? Sì, non c'è dubbio. Però adesso è un periodo in cui si parla tanto, per esempio, di questo Green New Deal, no? Di questo nuovo piano che abbia a che fare con l'ambiente. Ecco, questo non è una rivoluzione dal punto di vista economico, è una rivoluzione culturale, sulla quale però potrebbe efficacemente innestarsi poi un progetto più ampio, perché se ci mancano i riferimenti ideali diventa sempre soltanto una questione di commercio, di convenienze. Questo non ci aiuterà a costruire una società migliore, un rapporto più equilibrato e più sano con le piante, e io credo che attraverso quello passi anche la nostra felicità, non solo il nostro benessere. Vedo ovunque nella natura, ad esempio negli alberi, capacità di espressione e, per così dire, un'anima. Vincent Van Gogh. Flower Power, Alessandra Viola, edizioni Einaudi, un libro da leggere all'ombra di un grande albero o sul prato di uno dei grandi giardini italiani che visiteremo tra poco. Il giardino segreto. Chi pianta un giardino semina la felicità, antico proverbio cinese. Siamo pronti per un'estate al mare, ma anche al fresco dei giardini, nelle vacanze che in tantissimi quest'anno trascorreremo tra le bellezze italiane. Ad accompagnarci nella visita, con un occhio di riguardo per i giardini mediterranei, è Judith Wade, fondatrice e CEO di Grandi Giardini Italiani. Bentrovata. Su, ecco, buongiorno, come andiamo? Tutto bene, soprattutto adesso che i grandi giardini hanno riaperto, perché Judith Wade è colei che è arrivata dalla Scozia con una gioventù in giro per il mondo, in Italia è riuscita a creare un circuito dei nostri capolavori verdi che adesso troviamo su internet, troviamo su una guida, per cui una guida per condurci nei giardini storici d'Italia dovunque andremo in vacanza, è così. Ma è importante, io ho il lavoro più bello del mondo e dopo le pandemia, per cui sono stata come milioni di persone costretta a casa, non so se è il caso, ma quest'anno mi paiono i giardini più belli che mai. C'è una stagione di fioritura stupenda, però forse abbiamo gli occhi per vederli quest'anno e per apprezzare la libertà di muoverci all'aria aperta, anche se non siamo botanici fini, anche se non conosciamo la storia dell'arte, però quest'anno penso quest'estate sarà bello anche in serata prendere il fresco in un giardino e godere dello spazio e capire come mai, no, gli architetti del passato hanno giocato, hanno creato con la natura questi luoghi così speciali, magici. Una bellezza a cui non si può rimanere indifferenti, e forse questi primi giorni di riapertura rappresenteranno un momento che non tornerà più, perché spesso gli ingressi sono contingentati e quindi i giardini saranno in qualche modo tutti per noi. Ma non voglio vedere il bicchiere sempre pieno, che è il mio carattere, però forse avremmo sempre dovuto fare visite con questa nuova modalità. Adesso è possibile non solo prenotare il giorno, ma anche l'ora, per cui è molto più bello visitare un giardino, ma non come se fosse Piccadilly at lunchtime, mi perdoni questa espressione, però andarci con tutta calma, avere... è lo spazio che noi cerchiamo, quindi è molto più bello andare in un giardino senza fare le code. Io spero che questa usanza si terrà anche dopo. Abbiamo perso le fioriture primaverili, tuttavia abbiamo tutta l'estate davanti. Ma assolutamente, perché diciamo che quest'anno avremo occhi per vederli, come mi ripeto, quindi magari lo spazio sarà più importante per noi quest'estate, un po' in spiaggia, un po' in montagna, ma moltissimo anche sotto casa, per chi non potrà andare lontano da casa propria perché i giardini sono in 15 regioni. Oppure, se non andiamo all'estero quest'anno, perché non scoprire i giardini del sud? Cominciare a conoscere il meraviglioso giardino di Palazzo Colonna, centro Roma, sotto il Quirinale, un giardino che hanno aperto 2 anni fa, con tutti i reperti dell'archeologia romana, e quindi scoprire un piccolo giardino che è maestoso come proporzioni prospettiche, però, che alza lo sguardo dal palazzo, dalla famosa Galleria Colonna, fino a guardare il Quirinale in faccia. Quindi un giardino, se siamo a Roma, non ditemi che avete tutti visitato Villa d'Este a Tivoli, una delle meraviglie del mondo, che d'estate è ancora più bello grazie alle sue 1000 fontane. Poi, se siamo in Italia, andiamo quest'estate a visitare il Sacro Bosco di Bomarzo, posto esoterico. Sì, abbiamo sempre sentito parlare, abbiamo detto poi ci andremo. Questo l'anno per andarci. Anche questo è Viterbo. Viterbo è la zona con la più alta concentrazione di giardini rinascimentali, da Palazzo Farnese a Caprarola, Villa Lante, insomma potrei fare un elenco lunghissimo, anche Bignanello, che è di proprietà privata, in mezzo a questi boschi, sembra di tornare indietro nel tempo, tutto un paesaggio incontaminato per scoprire questi giardini con parterre rinascimentali perfetti, come nel caso di Vegnanello. Finora hai fatto un affresco del Lazio. Siamo partiti da Palazzo Colonna a Roma per andare nel regno delle cascate di Villa d'Este a Tivoli. Ci hai segnato Vignanello, Villa Lante. C'è davvero, anche soltanto nel Lazio, c'è un mondo. Adesso ci spingiamo un po' più a sud. Andiamo più al sud. Andiamo in campagna, perché abbiamo un appuntamento con la Reggia di Caserta. La Reggia di Caserta è tra i miei giardini preferiti perché ha il giardino inglese, creato da Carolina Borbone, che era la sorella di Maria Antonietta. Facevano un po' a gara di chi potesse fare i giardini più belli. Poi c'è la famosa veduta Van Vettigliana e poi c'è il bosco poco visitato, dove ci sono anche degli angoli esoterici. È molto completo questo giardino. È tra i giardini più importanti al mondo. Consiglio ovviamente la visita dalle 4 in poi d'estate, essere tra gli ultimi che escono la sera, fare la passeggiata al fresco, godersi anche della vista del famoso acquedotto Carolino, che è il mio saluto ovviamente, va al tutto il personale della Reggia di Caserta, hanno affrontato la riapertura, non è stata facile sanificare la Reggia, il parco, adattarsi alle nuove norme. Poi ovviamente andrei sulle isole. È aperto il Villa San Michele a Capri e questa era la casa di Axel Munthe, voleva una casa aperta al sole con un bellissimo giardino campano privato di questa fondazione svedese. Oltre andrei a Ischia a vedere 2 giardini molto diversi tra di loro, importantissimi, i giardini della Mortella di Lady Walton, adesso curato dalla signora Alessandra Vinci Guerra, che è la sua erede morale, ed è un giardino tropicale creato in una cava di pietra, quindi è un giardino moderno. Quindi in grandi giardini italiani non ci sono solo giardini storici, ci sono anche giardini contemporanei e moderni, come il Parco del Nigombo, che è un parco moderno, mediterraneo, con una collezione di sculture, e io preferisco personalmente le sculture all'aria aperta, no? Dialogano con la natura, con il mare, è veramente una bella meta per quest'estate, sì sì. In Sicilia ovviamente è aperto l'orto botanico di Palermo con i suoi ficus centenari enormi, molto ben gestite in questo momento, per una chicca a Taormina. Per chi andasse a Taormina, nelle colline di Taormina c'è una casa che si chiama Casa Cuseni, costruito da due inglesi all'inizio del Novecento, che come Oscar Wilde, per paura di essere messi in galera per la loro omosessualità, sono scappati via a Taormina per creare il loro nido. E il giardino è fatto su 5 o 6 terrazzamenti. Quando arrivi nell'ultimo livello, c'è una specie di reservoir d'acqua e la notte si riflette l'Etna. Judith Wade, potremmo continuare a lungo, ma purtroppo i minuti a disposizione non sono molti alla radio. Hai segnalato diversi giardini che sono ritrovabili in grandigiardini.it su internet e anche nella guida Grandi Giardini Italiani, in questo caso edizione 2020. I giardini di Judith Wade sono aperti tutti al pubblico, questa è una caratteristica che li accomuna. Non per questo sono aperti tutti i giorni, nel senso leggiamo la guida e leggiamo gli orari di apertura, perché io in Liguria qualche volta sono andata a vuoto, mi riferisco ad esempio al parco di Villa Groga Imperia, per chi è lì nel weekend in realtà è aperto il lunedì, piuttosto che anche un altro giardino in Liguria, la Cervara, è aperto solo in alcune domeniche, cioè bisogna fare attenzione a questo, ecco. E l'importante è ricordare, se noi andiamo tutti a visitare i giardini potranno allungare gli orari di apertura, è una questione di domanda e offerta. Gli altri giardini riescono ad avere il personale a stare aperto tanto perché hanno più visitatori. È un'equazione, no? Quest'estate vi aspettiamo, possiamo offrirvi veramente luoghi speciali dove passare le serate d'estate e per riproporsi alla nostra idea di libertà, no? Di movimento, ma anche di spirito, e apprezzare uno dei patrimoni botanici storici più importanti al mondo, che sono i grandi giardini italiani. Mi chiedi perché compro riso e fiori. Compro il riso per vivere e i fiori per avere una ragione per cui vivere. Confucio. Grazie per essere stati in giardino con me anche quest'anno. Ci ritroviamo con le dirette a settembre, ma il giardino segreto non mancherà neanche nelle prossime settimane, in cui vi farò riascoltare quello che forse vi siete persi. Voglio ringraziare i colleghi con cui ho lavorato da remoto, Alessandra, Michele, Dina, Walter, per citarne qualcuno, e anche, concedetemelo, mio marito Maurizio, che in questi mesi di smart working mi ha sopportato e insieme supportato, innamorandosi un po' anche lui delle piante. Vi aspetto domenica prossima con il meglio di una buona estate. Da Roberta Pellegatta.